Dal nero più profondo in cui sono mi illumini. E l'unica poesia che rimembro tu resti. Le tue, l'estensione del bene.